L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova puntata dell'altro pianeta in cui parleremo molto di agricoltura. Sia per la parte pratica, perché andremo a sentire com'è andata la stagione per un amico di vecchia data di questo programma, sia perché ne parleremo con chi la studia, per così dire. Ma prima di andare per campi, facciamo un tuffo in mare. E questa purtroppo una delle peggiori annate per gli uragani. Nei Caraibi ne stanno passando a raffica, come sentiamo nei notiziari. Dopo il passaggio dell'uragano Harvey, ha fatto il giro del mondo l'immagine di una carcassa di un animale misterioso sulla spiaggia di Texas City, scattata dalla fotografa naturalista Preti Desai. Un'anguillona gigante di cui sono evidenti lunghi e radi denti. Appare molliccia, di colore marroncino. Di certo è una bestia degli abissi. Allora abbiamo convocato per saperne di più un'esperta di pesci e di animali del mare, cioè Maria Sole Bianco, biologa marina, fondatrice e presidente della ONLUS World Rise, membro della Commissione Mondiale delle Aree Protette della IUCN, Unione Internazionale Conservazione della Natura. Maria Sole, che cos'è questa bestia? Ma la risposta è arrivata da questo professore e biologo dello Smithsonian Museum, che dice che è una specie di anguilla, diciamo, che vive nell'Oceano Atlantico a grande profondità. Si stima profondità verso i 90 metri, quindi non è proprio grandissima come profondità, ed è una delle tante creature che non conosciamo, perché ad oggi abbiamo esplorato solo il 3% di quello che c'è negli oceani, no? Basti pensare che gli abissi del mare sono meno conosciuti della Luna. Abbiamo sempre preferito guardare in alto, verso lo spazio, che in basso, immergendosi nelle profondità del nostro mare. Quanto sono profondi i mari, diciamo? I mari arrivano, diciamo, la profondità media è sui 1500 metri. Arrivano anche profondità che superano i 3000 di gran lunga. E in questo 3% che abbiamo già esplorato, diciamo, abbiamo trovato sia le montagne più alte al mondo che valli estensissime, profonde, ma addirittura pensa laghi sottomarini e cascate sottomarini. Cioè, e in tutto questo abitato da forme di vita diverse. Proprio come può essere un lago sottomarino? Scusa, la mia ignoranza, non riesco a immaginarlo. Esistono questi laghi sottomarini, cioè si formano delle conche in cui ci sono, cioè, una densità diversa d'acqua, e per questo formano proprio degli ambienti a sé stanti, ma addirittura cascate. E proprio in tutto questo abbiamo trovato queste forme di vita, proprio dove pensavamo non ci fosse assolutamente vita, no? E la diversità supera di gran lunga quella della foresta tropicale. Allora, quindi una bestia che vive a 90 metri di profondità in fondo non sta tanto in profondità e può essere sollevata da un uragano in condizioni particolari, ovviamente, non è che viene fuori in tempi normali. Certo, assolutamente questa è la causa, come abbiamo visto ultimamente anche dalla pesca intensiva, no? Questa pesca a strascico che va sempre più profonda a cercare questi pesci, ha sollevato e riportato alla luce o sulla terraferma delle creature incredibili, creature dove, diciamo, abbiamo due cose fondamentali. Una è le dimensioni gigantesche, che sembrano essere la norma, no? La regola negli ambienti marini, poi un po' mostruose anche, diciamo, ma tutte dominate da e illuminate, direi, da una luce propria, quella che si chiama bioluminescenza, no? Che sulla Terra abbiamo pochissimo, giusto le lucciole. Non dobbiamo far sì che siano gli uragani a rivelarcelo. Esatto, che ribadiamo comunque che uragani e cicloni aumentano sia in termini di forza e di potenza che in termini di frequenza, proprio come conseguenza diretta dei cambiamenti climatici. Ringraziando Maria Sole Bianco, a questo punto torniamo con i piedi per terra e parliamo di agricoltura. Ma Mario Vigo è un agricoltore, ma anche presidente del Centro Studi Innovagri. Ha messo a punto un protocollo di produzione che è stato denominato Combi Mais Hydro Technologies per la produzione del mais, appunto. Come ricordiamo sempre, questo progetto che noi seguiamo fin dall'inizio è stato varato in vista dell'Expo di Milano ed è ormai al Combi Mais 4.0. Mais, quello di Mario Vigo, che ha dovuto veramente sopravvivere alle condizioni più avverse. Abbiamo avuto l'anno con tanta acqua, l'anno con troppo poca acqua. Quest'anno com'è andata? Come giustamente ha detto lei, ci troviamo davanti a un'annata assolutamente limite. Velocemente, per fare una battuta sul corso dell'annata, devo dire che siamo partiti con il gelo, abbiamo continuato con la siccità e abbiamo avuto le ondate di calore. Quindi credo che peggio di così la situazione per la produzione non poteva essere. Appunto, Combi Mais è stato testato un po' ormai in tutte le situazioni. C'è stato l'anno della troppa acqua, l'anno della siccità, come è stato questo. Però voi nel frattempo avete anche affinato tutte le tecnologie che vi consentono di tenere sotto controllo la produzione. Mi ricordo l'ultima di cui abbiamo parlato sono state le app. Sì, certo, col protocollo che abbiamo messo anche appunto quest'anno con l'aiuto di tutti i nostri partner, che vorrei ricordare, Syngenta, l'Università Agraria di Torino, CIFO, Unimer, Samedoiz e CUN per le macchine, abbiamo messo a punto e Netafim per l'irrigazione, diciamo, sotterranea, abbiamo messo a punto questo protocollo che anche quest'anno ha avuto un impatto positivo in condizioni estreme. Questo significa che evidentemente il tipo di efficacia sulla coltivazione ancora una volta premia, dando una risposta che è sicuramente inferiore a quella dell'anno precedente, ma sicuramente ben superiore a quello che un'annata così estrema poteva ovviamente portare. I 149 quintali ettaro di granella costituiscono ancora una produzione, grazie anche e soprattutto alle tecnologie che oggi sono state introdotte e che in particolare quest'anno abbiamo testato, cioè le app che seguono e monitorizzano la semina, l'irrigazione, la protezione di tutto il protocollo, e quindi per rispondere evidentemente con un uso sempre più affinato di tutte le risorse per arrivare a un'ottima produzione e soprattutto di qualità. Diciamo, per chiarire rispetto a queste affermazioni di Mario Vigo che abbiamo appena sentito, che ci sono state delle aree d'Italia in cui si è registrata una perdita del 30% dei raccolti rispetto al 2016, altre in cui siamo andati attorno al 15-17%, quindi il calo del 6% registrato dal Combi Mais che viene prodotto nella provincia di Milano, è un buon risultato, è un ottimo risultato rispetto a come è andata in altre aree d'Italia. Assolutamente, inserendoci in questo contesto che è l'agricoltura di precisione, oggi noi siamo in grado di rispondere a queste sfide che sono dovute al cambiamento climatico, ma che comunque comportano per le aziende agricole la necessità di dover produrre, e quindi grazie a un sistema estremamente preciso dove si dosa qualsiasi elemento, sia di nutrimento del terreno, sia di dosare il consumo delle acque, sia soprattutto anche grazie alle app, gli interventi assolutamente mirati al momento necessario. Questo in condizioni così estreme fa sì che si possa cercare di pianificare una produzione e soprattutto ottenere non solo una produzione che può fare redditività, ma soprattutto una produzione che mantiene la qualità. Infatti per il quarto anno consecutivo possiamo consegnare ai consumatori un prodotto sano, genuino e soprattutto esente da quelle che sono le micotossine che caratterizzano molto spesso le coltivazioni in anni così estremamente complicati dal punto di vista climatico. Dunque, però, per portare, diciamo che questo rende evidente che l'agricoltura di precisione deve essere un obiettivo. Anche, diciamo, a livello governativo, il ministro ne ha parlato più volte, bisogna raggiungere certi target, però è anche un investimento. Cioè non è che sia proprio così facile, adesso parto e faccio l'agricoltura di precisione. Lì c'è bisogno di un supporto anche su quell'aspetto lì. Esatto, assolutamente, osservazione assolutamente giustissima. Direi che oggi stiamo passando da quello che è un'agricoltura meccanica a un'agricoltura digitale. 100 anni fa siamo passati dai buoi ai trattori, adesso dobbiamo passare dai trattori a un'agricoltura ancora più digitale. È evidente che è necessario un piano di investimenti, perché fare questi protocolli portano sia una produzione, ma hanno anche dei grossi costi di investimento, soprattutto anche dal punto di vista delle applicazioni di carattere digitale, ma è necessario chiaramente una politica che possa evidentemente andare incontro agli imprenditori che nel corso dei prossimi anni possano evidentemente migliorare. Se oggi si stima che l'agricoltura di precisione è l'1% nel nostro paese e gli obiettivi del governo sono nel 2021 di arrivare al 10%, è altrettanto evidente che è estremamente necessario un piano previsto, io credo, attraverso l'Unione Europea e accaduta da parte della Regione Lombardia, per pianificare e finanziare tutto questo evidentemente investimento, che può portare poi a un miglioramento della produzione e soprattutto anche a un risparmio di elementi naturali, soprattutto l'acqua. Aggiungo anche di estrema importanza anche una scuola di formazione che possa far sì di formare non solo imprenditori ma anche operatori che riescano a lavorare sia al sistema digitale sia a nuove macchine. Credo che ormai fra qualche anno addirittura avremo i trattori che si muovono con i robot, quindi è chiaro ed evidente che in tutto questo siamo in un periodo di grande cambiamento, ma è necessario soprattutto assicurare un prodotto sano e genuino, e quindi il concetto della qualità non va mai perso di vista. Bene, grazie a Mario Vigo, presidente del Centro Studi Innovagri. Facciamo una pausa e ci ritroviamo. L'altro pianeta. Ancora insieme per la seconda parte dell'altro pianeta, ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Abbiamo introdotto l'argomento agricoltura digitale poco fa e andiamo avanti su questo tema. Nei giorni scorsi ho ricevuto un comunicato stampa, tra l'altro vi ricordo l'indirizzo l'altropianeta@radio24.it, dicevo un comunicato stampa che iniziava così. I contoterzisti Uncai di tutta Italia sono stati invitati a rispondere a un questionario online dell'osservatorio Smart AgriFood sull'impiego in azienda degli strumenti dell'agricoltura digitale. Con due obiettivi, si spiegava, innanzitutto fotografare la diffusione dell'agricoltura 4.0 tra i contoterzisti e in secondo luogo formare e informare gli stessi contoterzisti sulle caratteristiche e sui vantaggi dell'agricoltura digitale. A questo punto, incuriosita, ho chiamato le parti in causa per saperne di più. Quindi, i nostri ospiti a questo punto sono Giuliano Oldani, presidente di APIMA di Milano e Lodi, associazione aderente ad Uncai, e ci spiega tutto lui stesso, perché queste sono sigle complesse e vanno sciolte. APIMA è l'associazione provinciale dei contoterzisti ed è associata appunto a Uncai, che è l'associazione nazionale. Il contoterzista svolge un'azione importante di lavori e di servizi in genere a 360 gradi nell'azienda agricola. Noi abbiamo e deteniamo ovviamente il 98% circa per quanto riguarda la raccolta, la facciamo noi con delle macchine costosissime che non potrebbero essere acquistate dalle aziende agricole. Ecco. Quindi lei mi dice il 98% della raccolta in Italia agricola viene fatta da contoterzisti? Viene fatta dai contoterzisti, sì. Ovviamente facciamo anche lavorazioni del terreno, minime lavorazioni, soprattutto i fitofarmaci. Anche nei fitofarmaci sta aumentando la presenza del contoterzista e l'abbandono di vecchie macchine per quanto riguarda trattamenti antiparassitari, erbicidi eccetera da parte dell'azienda agricola, perché non hanno macchine sufficientemente adeguate, ecco, per la normativa. Quindi noi stiamo aumentando molto anche in quel lato lì. E l'altro ospite è Filippo Renga del Politecnico di Milano e direttore dell'osservatorio Smart AgriFood. L'osservatorio Smart AgriFood al Politecnico di Milano supporta le aziende agricole ma anche alimentari ad essere più competitive attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. È possibile riuscire a migliorare le produzioni in campo fino a raggiungere la trasformazione ma anche la distribuzione. Ci sono strumenti che possono ridurre l'utilizzo di risorse idriche o magari intervenire per difendere le colture in maniera molto più mirata e spendendo meno, conseguentemente essere più efficienti mantenendo gli stessi ricavi. Oh, aggiungiamo, aumentare i ricavi e mantenere i costi sotto controllo. Va bene, questo è il quadro che ci hanno tracciato gli ospiti. Tecnologie che possono tenere sotto controllo acqua, qualità, nutrimento del terreno e via dicendo. Informazioni che tra l'altro possono anche interessare al consumatore finale, cioè a noi, una volta che saranno ben esplicitate nei prodotti che noi compriamo. La relazione tra osservatorio e conto terzisti quindi fruttuosa, potenzialmente anche per noi, e anche a doppio senso. L'abbiamo capito, perché i conto terzisti possono montare sulle loro macchine i sensori, i rilevatori che servono all'osservatorio Smart AgriFood per raccogliere i dati, ma in futuro potranno godere dei risultati. Il professor Renga. Sì, sostanzialmente sì, noi in qualche modo li supportiamo a determinare quali sono le soluzioni, quali sono i sensori, quali sono le macchine che possono beneficiare meglio dell'utilizzo di queste tecnologie e poi valutarne anche la convenienza economica, perché ovviamente poi questi investimenti devono ripagarsi nel lungo periodo e devono dare benefici anche a tutti gli attori della filiera, per cui benefici per l'agricoltore, per il conto terzista, e indurre più sostenibilità su tutta la filiera e conseguentemente anche alla trasformazione, che è interessata a sapere con certezza che prodotti sono stati e come sono stati realizzati determinati prodotti. Presidente Oldani, appunto, da parte vostra, adesso io lo so che lei è particolarmente ci sente, diciamo, come si dice, su questo argomento, ma gli associati a Pima e magari più a largo Uncai percepiscono questa necessità, la vedono come un servizio che possono, diciamo così, rivendersi bene anche? Diciamo che è molto difficile, perché l'agricoltore generalmente riesce a recepire ciò che tocca con mano nell'immediatezza, quindi dobbiamo aiutarli a cambiare un attimino la mentalità, ma anche i nostri associati, alcuni sono radicati sull'abbiamo sempre fatto così, l'innovazione dà fastidio a tutti. Però bisogna tenere in considerazione anche un altro problema grosso, che questa mattina, un paio d'ore prima che lei mi intervistasse, un mio cliente me l'ha detto. Ci stanno facendo fare delle cose da un punto di vista informatico. Noi abbiamo aziende in certi luoghi che non sono coperti da internet, quindi la telefonia in Italia diciamo che fa acqua da tutte le parti. Quindi dobbiamo anche spingere il mondo politico affinché adotti questi strumenti, che sono ovviamente una cosa non futuristica, ma dovevano esserci già questi servizi che non ci sono. Ecco. Comunque non è facile innovare ed introdurre delle innovazioni, siccome se non percepiscono un vantaggio, un valore aggiunto. E quale valore aggiunto, chiedo al professor Renga, può dare questa agricoltura digitale, questa rivoluzione? Evidentemente il valore aggiunto passa attraverso o minori costi o maggiori ricavi, per cui è evidente che l'innovazione genera un rischio, almeno nel breve e nell'immediatezza, per cui quello che dovremmo fare è far capire che con questi sensori, con questi strumenti, si consuma meno energia, si consuma meno gasolio, si riesce a soddisfare meglio l'agricoltore perché il prodotto sarà di maggiore qualità, e questo consentirà anche alle aziende della trasformazione di pagare meglio quel prodotto, per cui la dimostrazione, il modo per adottare queste soluzioni rimane sempre lo stesso quando parliamo di tecnologia, minori costi e maggiori ricavi, e questo lo stiamo dimostrando in maniera chiara anche attraverso le analisi che portiamo avanti. È un processo che non è immediato, ma che è normale, come abbiamo visto per l'adozione anche della semplice email, poi progressivamente si riesce se si vedono i benefici, a introdurli in maniera chiara. Evidentemente qualche aiuto, qualche elemento anche di infrastruttura andrebbe nella direzione, ma la tecnologia sta anche cercando di sopperire ai problemi magari di copertura della rete. Sì, tra l'altro ovviamente il problema della copertura della rete è un problema, però nel momento in cui si raccolgono dei dati per poi dopo trarne delle conclusioni, elaborarli, che ci sia copertura o no, questo non fa molta differenza. Sì, infatti in questo momento qual è la soluzione? Che magari in campo vengono raccolti proprio dai controterzisti che già stanno raccogliendo un'importantissima mole di dati, poi una volta arrivati nel ricovero possono trasferire questi dati e possono essere utilizzati per gli utilizzi che dicevamo prima. Sì. Costano tanto le macchine agricole che hanno in mano i contoterzisti e che vengono usate nei campi italiani e sono sofisticatissime. Ma come ci capita con gli smartphone, pochi sanno usarle bene fino in fondo. Tanti invece si limitano all'essenziale. Presidente Oldani. Effettivamente abbiamo in mano macchine favolose, ecco, al di là dei costi, ed effettivamente devo condividere quello che ha detto prima il professore. Non è un costo spaventoso mettere un satellitare su a una macchina semovente, su una mietitrebbia, su una trincia, quindi una macchina da raccolta. Non è quello il problema, o mettere un NIR sulla trincia o anche sulla Big Baler, sulla pressa, in modo da poter raccogliere quei dati che permettono di fare sia mappe di resa ma anche mappe di qualità, sapere un certo campo di mais, la percentuale di amidi, la percentuale di zuccheri. Insomma, io sono un imprenditore, io riesco a prendere delle decisioni nel momento in cui io sono a conoscenza dei miei errori, ma se io non conosco là dove sbaglio o là dove potrei migliorare, come faccio a prendere delle decisioni? E i dati, e qui non sono parole mie ma del professor Renga, i dati saranno il petrolio del futuro, e di conseguenza io credo in questo. Devo però spingere affinché l'università, soprattutto l'università e il pubblico, sappia integrare un software che possa veramente riunire tutte queste nostre esigenze, perché il problema dei dati non è raccoglierli e poi elaborarli. E poi anche leggerli, se mi consente, perché poi voi contoterzisti, ma anche gli agricoltori devono essere in grado di leggere questi risultati e fare le loro scelte. Quindi questo tipo di mais sì, quell'altro no, questo modo sì, quest'altro no, e così via, no? Perché altrimenti siamo in mano alle multinazionali, perché queste cose le fanno solo loro. Non faccio nomi, ma se io dovessi dare la possibilità all'agricoltore di capire che tagliando basso si porta a casa il 13% di ceneri con la trincia, tagliando a 30 centimetri se ne porta a casa 5, già lì è una scelta che lui è libero di fare. Poi da un prodotto all'altro, non guardando solo la quantità, ma puntando sulla qualità, perché è quella che paga, il valore intrinseco che c'è per gli elementi nutrizionali che noi portiamo a casa. Ma come facciamo a capirli se non abbiamo dei dati? Ma che tempi si sono dati per questi studi, l'Osservatorio Smart Agri-Food, i contoterzisti e comunque tutti coloro che sono coinvolti in questa grande ricerca nei campi italiani? Beh, lo studio complesso arriverà tra 5 anni, ma i primi risultati arriveranno a brevissimo, a ottobre, e poi altri a gennaio. Insomma, passo dopo passo verso l'agricoltura digitale. Grazie ai nostri ospiti Giuliano Oldani, presidente di Apima di Milano e Lodi, aderente ad Uncai, e Filippo Renga del Politecnico di Milano e direttore dell'Osservatorio Smart Agri-Food. Grazie a tutti voi per l'ascolto e ci diamo appuntamento la prossima settimana alla stessa ora.